muove nulla. Hai notato il microfono di questo apparecchietto omologato, sì? Un po' ambiguo, fuori dagli schemi, giusto? Grazie, per un telecomando. Usi speciali. Vabbè. Lo fa. Cappa. Foto da non diffondere, ovviamente. Eh beh, certo, avrà posto, già lo sai, no? Manco fosse segreto di Stato, un cazzo di baracchino omologato, va bene. È un po' fuori dagli schemi, però pur sempre con un baracchino 3 watt, nemmeno 4, ok. Ehi, va bene, avanti Natali. Capa, QRX un attimo, causa QTH piccolino. Succede. Sì, che barba, che noia, che barba. Oh, mamma mia. Vedi galore. Poi qua il sole batte da quando albeggia sino a quando tramonta. Prende prima una parte e poi l'altra è la casa, e quindi il manufatto prende, assorbe calore e poi lo rilascia. Crocro. Però questa propagazione, vediamo se c'è qualcuno, attenzione, c'è qualcuno dal nord o sud Italia per la Sardegna chiama, avanti. Niente. Come QSL spediamo una forma di casomarzo. Ho un gioco di salsiccia, così è. Beh, a questo punto anche un boccione di vino, ma dicono buono, eh. Oppure una bella bottiglietta di filo verde. Sempre che con questo caldo non evapori dai già dentro la bottiglia. Quello è molto volatile. Adesso non la bevi adesso, ragazzo, che ti aggabba subito. Allora, sto mangiando tortelloni in brodo da un'ora ce l'ho nel piatto. Già non avevo voglia prima, adesso sono pure freddi. Adesso mi sto salendo un po' il vomito, mi sto salendo. Grazie. No, chissà perché, ma soprattutto in estate capita che cali un po' l'appetito, dai. Ancora non ho mangiato nulla. Ho mangiato una banana stamattina. E ancora non ho. Dirti la verità, non ho così tanto appetito, magari mi sbrano qualcosa più tardi. Uffa. Ecco, visto che siamo in locale. E qua è imboscato, non lo vedo, lo spia. Ogni volta mi devo mettere a capo in giosso a vedere se è acceso. Tre watt. L'importante è che passi il QRM, poi. A voglia. Adesso non c'ho gli occhiali appoggiati in mano per vedere quanto è il livello del QRM. Recuperato, mi è venuta la folgorazione, era nel mobiletto in corridoio il 3009. Babà! Eureka. Vabbè, noi ci scherziamo, però se non ti mi preoccupo di questa memoria è che sono talmente distratto, sai, quando ho cose devo sbarazzare in fretta, devo pulire il campo di battaglia qua, metto a destra, a sinistra, poi non mi ricordo dove l'ho messo. Succede. Adesso va bene, il Jupix è spento, sto facendo rullare questo, li alterno, dai, per non renderli troppo pigri. Sono rientrato. Arrivo subito, Cara, oggi mi sa che c'era anche il Rilli, così è Marco. Sì, guarda, buonasera. Prova, ci siamo, sì. 1, 2, 3, prova, eccomi qua, ecco il 3009, mi sto ascoltando, adesso tolgo il monitor qua. Si sente. Questo è Gabbo. Vediamo il tuo segnale da attenuato completamente, com'è? Guarda, 1, 2, 3, prova. Metti portante muta. E così, il tutto da mezzo. Come fosse un Santiago tra il 3 e il 4 reale, fra il 4 dai. Poi questo va letto in un certo modo, te l'avevo già spiegato, no? Sì signore. Do quando rientra Gianni vedrò Gianni com'è con l'antenna un quarto, e poi lo vedrò quando cambia l'antenna. Allora sai le bande che fa questa antenna? Cioè i 10, gli 11, i 12, 21, fino a 31 va. E io mi mangio un cremino, pane e cioccolato alla faccia vostra, ti è? Ah, e non ci hai invitato. Vabbè, segna Marco. Sì. Scusate, ecco già, premi la portante che ti attenuo tutto, squarcia zero. Ehi, quindi hai collegato l'imboscata, dai. Aspetta che ti lascio un po' di portante muta e poi vedi tu. Caspita, attenua tantissimo questo RF gain. Praticamente ti ho spiegato come si legge questo smitter, no? Quindi leggendolo in quel modo tu sei un segnale reale circa 3 attenuato, 3. Giusto. E non attenuato? Vai. 1, 2, 3. Tesseradio. Galaxy Uranus della Intec 27075. Allora, 9.25, almeno come la interpreto io, pertanto 9.30 a fondo scala, sei sul più, sulla stanghetta più del più 30, sulla stanghetta verticale del più 30. Se vai appena dopo, mezzo millimetro dopo la stanghetta verticale più 30, quello è il fondo scala, e di più non va, non va. Ok. I watt naturalmente cosa sia al massimo di quella Uranus? Sono 4 per esattezza adesso. Magari facciamo la prova e diminuisco per vedere qual è la differenza. No, meglio usare la velocità di crociera, così la prossima volta terrai i 4 watt e vedrò se hai guadagnato almeno qua, attenuando. Che poi, come dice Cosi giustamente, in città è molto troppo relativo, capito? Il guadagno reale magari lo vedi in distanza, anche attenuando, però vabbè. Ehi, finisci a mangiare il cremino, buon aleggio. Una scatola ne avrei voluto, e gli altri sono già partiti, poi. E me lo dici pure, aiuto, cavolo. Sono proprio quelli che mi piacciono e non ne posso mangiare, tu mi dici mi sto mangiando il cremino. Ma cremino tu intendi il pinguino, sì, quello con lo stecco. Allora. Quello lì, quello con lo stecco, cremino, pinguino, non mi ammetto. Adesso si chiama cremino, con la nuova buccia, c'è scritto cremino. Più o meno ti ricordi le vecchie. Adesso non so che sto facendo soffrire Natalino. Le vecchie bomboniere dell'Argida, quei pastigliotti ricoperti di cioccolato con la panna dentro, che ce n'erano tipo 8 o 10. Adesso, roba di magnata degli crocro. Ricordo benissimo, anch'io facevo ingozzate storiche. Natali, non ci pensare, al cremino di Gianni non ci pensare, pensa che io ho tipo il magnum tutto incastonato di il cuore di tipo panna, caramello, cos'è? Poi il coso di cioccolato, c'è fuori tutto incastonato di granella di nocciole, roba del genere. Poi il cornetto, non te ne dico, panna, cacao e cioccolato. Con l'ostia e anche lì tutto impallato di nocciole, di mandorle, di tutto canto. E poi le coppette affogate alla marena, non ne vuoi di più? Bravo, comprarmi un chilo di panna. Riprenditi, abbiamo il portantista. Di panna. Se non lo sai è chiuso. Trovamelo, perché mi stanno ammazzando qui. Ma putiti. Avete parlato in due, Gianni, con Natalino, hai visto? Oh, voi alza lì, fregatene, vabbè, io ce li ho, ma non ho nemmeno fame. C'ho questo, se avessi potuto te l'avrei mandato via Ettore il gelato, almeno uno, poi già compensi con l'insulina, come faccio anni. È bello che manco con quella posso compensare, che non ne sto facendo. Solo la notte, una solo, me le hanno tolte. Dice che non ho bisogno di insulina io. Prendo una pastiglia e mi fa tutto il giorno. Però è una grande notizia. Magari che sia portante, c'è una portante che sopra che passa ogni tanto. Vabbè, passate tutti e due comunque. Ma che la metta, cosa me ne frega della portante? Cazzo, mi compro un linearone da un kilowatt e quando prendo la patente lo uso qua, così faccio abbattimento zero a tutti. O forse o è propagazione o oh, cosa, boh, vabbè, comunque non si era fatto nulla. Avanti Marco, c'è una stazione in FM che chiama, questa è roba nostra, non è propagazione. Niente. Ma nei canali sopra c'è movimento? Qualcuno ha girato? E io cosa giro? Non posso girare un tubo. Quindi mi. Tu Marco hai provato a... Sei salito nei canali di su? No. Marco, siamo andati a prendersi il magnum. Ho sbagliato banda, scusate. Altro che se c'è movimento. Posso immaginare. Te l'avevo detto, Edana, era uno di quelli, gatta, e tu sei sempre secco, già lo sappiamo. Ce n'è propaganda su, Marco? Ehi, banda laterale a nastro. Tipo? Ehi, non lo so, ho fatto un giro velocissimo, però anche segnali 9 pieno, eh. Ehi, no, che smanettare. Posso cambiare la scala, però con l'Urano c'è un po' un travaglio, dai. Anche se posso mettere la scansione automatica, però adesso non ne ho voglia, dai. Ma, blackout? Cosa già? No, ho detto blackout, c'è stato un attimo di silenzio. Sto leggendo e poi bevendo e tante altre cose. Ah, ecco, 3009 col microfono normale, Marco. Oh. Ah sì, mi sembra un microfono normale. Sì, con raffreddore anche. 3009, vabbè, pressione omologata, microfono normale e raffreddore annesso e connesso, quindi sarà un po' più nasale. Va benissimo, va benissimo. Oh yeah. Ah. Sente benissimo, ha un bel suono il 3009, non ce n'è per nessuno. Ehi, vabbè, però alla fine baraccocco come tanti altri, peraltro di concezione vecchia, vabbè, per fortuna, dico io, componenti per fortuna non SMD. È proprio di lusso. Cazzo, con LED bianco è uno spettacolo. Un bravo di Giugio, no, dai. Ehi, mi si è bruciata la lampadina dello Smithers e io ho preso e ci ho schiaffato un LED con la resistenza di quelli bianchi, ma si vede così bene lo Smithers, troppo bello, bello luminoso. Anche a me l'anno scorso c'era bruciato, manopole, frontalino, una giubuga d'udduto. No, io ho messo le ho comprate da Fusaro, ne ho comprato un paio, due o tre, quelle lampadine a incandescenza sono veramente minuscole e i terminali sono quasi invisibili, cazzo, ma già dopo domani, cazzo, due paio di occhiali per vederle e per fare le saldature, però dai, sono rimasto sul classico. Gianni, le bestemmie che ho tirato per saldare quei cosi invisibili non te ne dico nulla. Sono ben sottili, come il rame che si trovava o nelle capsule microfoniche o nelle membrane delle cuffie, che magari ti si rompeva e andare a provare a saldarlo è proprio assolutamente assolutamente niente, proprio non si riusciva. Neanche un cappello forse così. Yes. Infatti. Però dai, alla fine ci sono riuscito. Io due volte l'ho dovuta cambiare la lampadina in quello con il display rosso, no? Con i LED rossi, due volte. Ho fatto male a non mettere direttamente, come ha fatto Natalino, il LED e la resistenza. Se la butta la domi la resistenza con LED, Marco. Ma adesso finché non si brucia, già ne smonto domani. L'ho dovuto smontare. Dai che spengo questa e scendo l'altra radio, dai. Dai. Porca miseria, c'ho anche le orecchie tutte foderate di prosciutto, Natalì. Velatemi, tipiche delle raffreddore, influenza. Senti, suoni ovattati. Lo so, quando uno è intasato così. C'era qualcuno che voleva entrare, buonasera, che non stavo uscendo di radio prima. Attenzione, su binario 10, se ascoltate l'isola della Sardegna, Gambia. Già ti ascoltiamo, cosa vuoi a quest'ora? Io avviati. Cosa voglio? Niente, voglio, a quest'ora io faccio il mio dovere e poi sono libero. Buonasera. Rieccomi. Eia, 9 più 20 a Matter Ecclesia, buonasera. Gianni non mi sente. Scappa Marco, ti sento, ma stavo manovrando con la macchina. Ah, sei in macchina? Ehi, non te ne sei accorto che è in macchina, gatta, mica sei rimbambito. Sono in macchina nel cortile di casa, là. Non me li ricordo i segnali, Natalì. Poi sì, infatti li puoi variare sempre, non lo so, mica vado a bere, stacco un attimo, vado a bere. Cappa. Caduca, tipo, non senti medico, nulla, tenere l'FM, l'apparecchio, non c'era che saliva, ma non c'era qua REM. E invece era in FM, la fanfuffia. Così è brutto, perché pensi che si è rotto l'apparecchio? Ma io ci ho messo poco, ho controllato l'antenna, ho controllato tutto, era tutto a posto, ho guardato l'apparecchio e lui è qui in FM, ma va a fare Napoli, forse come lo prendo, cosa l'ho mosso la manopola, va. Rieccomi. Ehi, Gianni. È entrato Gianni doffio Rubroffè. Lo so, ho aperto quel microfono, catta, ma devono essere incollate quelle robe di ferro, se no le avrei tolte, non ci sono riuscito, perché ogni tanto non schiaccio bene e la radio esce quando è tutto giù il pulsante, capito? Devo mettergli uno spessore, qualche cosa, Ah no, se lo trovo te lo do io, la carcassa del microfono, ti cambi la capsula, ti metti quella lì, ti cambio e vado io. Ce l'avevo, gatta, quella del Galaxy, ce l'avevo io. Giù tutto regalato, non c'ho più un cavolo qua. Manco un PL mi ha avanzato più. Devo ordinarmeli anche i PL, gatta, ma... Ciao Gianni, buonasera. ho cambiato radio poco fa, dai. È capretto, Natalì. Eia. Quando vado a casa la cerco, dai, se la trovo. Ti cambi la capsula, ti metti quella lì, quello che ti do io, e fatelo io, che è leggero. Gianni, ma mi copi? Scusa, Natalì. Dimmi, Gianni. No, a doppio, se mi copia, se vuoi tra le voci, ma forse non mi sente, boh. Sì, che ti sente, in macchina. Gianni, lo senti a Brofetta? Devo stare attento alla guida, non posso parlare. Gaba, ti sento forte e chiaro. Non ti preoccupare che arrivi bene. No, grazie. No, vabbè, perché ho fatto un cambio, dai. Niente di particolare. Sì, lo so che stai guidando, no. Temevo che non mi avessi copiato, dai. C'è anche Marco che è andato a sorseggiare un po' d'acqua, magari è rientrato, Non solo di copiarti, c'è fondo scala qua. Gallina vecchia fa buon brodo. Che cosa hai messo? Cosa hai messo nel caffè? No, niente, che ci che mi sto usando. Il Cupix, il clone del tutto, qui. E basta, non c'è niente attaccato. E l'antenna è blu. Il Jupix, che è praticamente il clone del Pluto, è il superstar col frequenzimetro, per intenderci. Sì, già lo conosco, sì. Vabbè. E infatti è tipo quello lì, sì. No, già va bene, quanti vatti dà quell'apparecchio? Adesso sono 8 e spiccioli, dai. Non ci arriva neanche a 9. Gianni? Avanti, va. Eia, allora, quello lì è sputato identico a quello che ha Franco Ombra. Cioè, con potenza non regolabile, identico, cambia solo il nome. E quello che ha Ombra si chiama tipo Samurai. Non mi viene il nome completo, Samurai, quello lì, uguale. Gaba gaba, non lo conosco quest'ombra, comunque l'ho sentito nominare, non se l'ha dovuto mai. Franco Binario. Ah, Ombra si chiama, non lo sapevo. No, la moglie si chiamava Ombra. Ho sbagliato io già, hai visto? Franco Binario, sì. Lui c'ha il Suzuki, non mi ricordo se si chiama Suzuki Samurai o roba del genere. Io l'ho avuto, ero passato dal 3009 al Samurai, praticamente al 3009, dal Multimode 3, che non sentivi nulla in nessun canale da lì, dal battimento, al Samurai e sono finiti gli splatter. Finito lo splatter, finito il battimento. E un Pluto è praticamente. Eia, però ricordati che il Pluto ha la regolazione potenza e doppio finale. E K. Franco sta uscendo con un'antenna a canna da pesca, però non ce l'ha sul tetto. Se l'avesse avuta sul tetto uscirebbe un bel più forte. Ce l'ha come ce l'ha Giulia appoggiata sul terrazzo lì. Eia, ti vado a fare il caffè. A da voi, ciao. Vai Gianni, il profeta. Buona caffeina. Avanti, Natali. Ha rilanciato a Gianni Rubrofetta Marco, che sta andando a farsi il caffè. Avanti Gianni. Eia, cazzo. Vabbè, quando torno dal caffè, se mi sente Marco, di prendere nota del segnale adesso. Il riferimento con l'altra radio, così abbiamo due parametri. Vabbè, si inganna dopo il caffè, già siamo qua. D'ora in poi chiamateci per nominativo, perché se no ci confondiamo, ogni volta che chiama già ne rispondiamo in due. Cappa, non c'è problema. Comunque secondo me ti conviene prendersi l'antenna come la mia, che c'ha un bel di bande. Se ti devi mettere un ricevitore almeno c'hai anche l'antenna. No, negativo Natali, no. Per adesso non mi interessa. E poi il budget non è che sia. Con i soldi con l'antenna compare giù tutto. Per cui capisci a me. Gianni, profeta. Allora, copiato, ho messo tutto a zero, vai. Eccomi. Super Jupix 2000, alias Pluto, alias Samurai, alias Geisha o come ti si chiama, con 8 watt oscillanti, con i picchi positivi, e niente. Atteno e vediamo un po' cosa succede. Guarda, un'inezia di più, proprio un'inezia, se prima eri 3 adesso sei 3 e 1 dB, che ne so io. Guarda, è appena percettibile. Sei ne a 3 tu, così almeno quando piazzerà l'antenna vediamo quanto guadagna. Con le fighe tutto aperto, com'è la questione? Adesso lo alzo, prova un po'. Dovrebbe cambiare qualcosa. Ricordati la provenienza di questa radio, quindi non te ne dimenticare. Ma ti dirò, sempre 9,25 già, non, con questo apparato non cambia, se io metto il 7.900 arrivi 9,40, 9,45, perché quello è il fondo scala suo però. Siamo lì, non, meglio attenuato comunque per vedere. Allora pensa che quando facevano le prove tra Grazioli e altre antenne, o tra Grazioli e Grazioli, non usavano gli smitter, certi usavano i decibel, aspetta com'era, dbm o cosa era, unità di misura che comunque io non ho, i voltmetro addirittura, non ve lo so dire, dai. Ho capito, sì, no vabbè, era... adesso ho visto che stavano così cazzeggiando a livello a livello di misure, niente, va bene così, dai, avanti Gianni se ci sei ancora. Io ci sono, mi sono fermato sotto l'ombra, sotto un albero, c'è un freschetto qua, e sono al quadrato, è copiato. Affermativo, noia. Vabbè, ho risposto a Natalino per la storia dell'antenna, non so se mi ha sentito. Ehi, ma ti è arrivata già? No, ho detto che questa settimana, se non ci sono intoppi, vedo di fare l'ordine, dai, prendo tutto. Cerco di prendere più roba possibile da un unico fornitore, anche se purtroppo il microfono è da una Shabashi. Prendo antenna, cavo, PL e poi il microfonino recensito da voi due, dai. Avevi deciso tra la mezz'onda e la 5 ottavi? Sì, metto la 5 ottavi, dai. Ne ho trovato una a buon prezzo e metto quella, ciccia, girabile di luci. Registrate il break. Ma ci sei ancora? Se niente, fai venire avanti il break. Avanti il break, buonasera. Buonasera a tutti, un saluto al circolare, Saverio. Ciao Saverio, buonasera, ben sentito. Ciao Saverio, ben sentito. Ciao Gianni, ben sentito anche a te. È in condizione un po' precaria qua, dai. Dove sei Saverio? A Domo, mi sono andato poco fa a ritirare l'aria con Puppo all'ospedale. Adesso sono a casa, dai. Ero 3 giorni qua, facendo il test con 3 bambini. Oh, yeah. Auguroni anche dalla 50, servito. Grazie mille, ragazzi, mi sentito abbastanza bene, adesso la propaganda ti sta coprendo. Ciao Saverio, buonasera, ben entrato e auguroni per il nuovo arrivo, dai. A tutta la family, come si dice. Grazie mille, dai, grazie a tutti. Adesso mi sta facendo la nanna, il bambuccio. Ciao Saverio, ben entrato. Qua arrivi bene. C'hai sempre il quarto d'onda? Sì, sto usando un quarto d'onda e poi mi sono reso conto che sulla banda cittadina qua c'ho anche un po' di stazionaria, ma adesso vediamo un po' se domani riesco a metterli in mano. Non lo so cosa sia successo, addirittura pensavo che avevo perso lo stiletto per la regolazione delle cose, ma ho guardato ed è attaccato, soltanto che è sbracciato, c'ho un tubo lungo che cammina nello scorrimano e poi sale un palo e quindi devo mollare le gaffe, far venire tutto quello che scorre nel scorrimano della ringhiera, avvicinarmela in modo di poterci lavorare. Ma è anche vero, ieri stavo parlando con Claudio, che ho 22 metri di cavo RG 213 che non ci fanno niente, perché a poche parole io da lì dall'antenna arrivare qui dentro nella stanza mi basterebbero 6-7 metri di cavo. Questi 22 metri sono quelli che avevo con la Mantova in un'altra abitazione, ok? Adesso te ne dico una. Allora, io ne ho 50 metri di 213 e purtroppo mi servono tutti. Ok, vuol dire che sei molto lontano. Ma io qua dietro il muro c'è il mio poggiolo, sono aperto qua e ho tutto. Sì, è vero che se salgo nel tetto cambierebbe parecchio per altre determinate zone, ma per quanto riguarda giù la zona del mare, cioè vedo tutto, sento peschici tutti fuori, a punta scorre, li sento parlando, c'ho una buonissima ricezione. Poi logicamente la trasmissione con un quarto d'onda non è che si può pretendere più di tanto, ok? Io rilancio a doppio room che vado a fare il caffè e volevo dire già c'è la propagazione dall'Italia oggi, quindi affilate le orecchie, i watt, che magari qualcosa di bello ci esce. E vai Gianni. E io poco altre parti ciò che ho l'apparecchio solo, ma infatti la sento la propagazione, mi sta coprendo a San Vedio, qua dove sono io la propagazione è alta, ma quando parlate voi la coprite, invece quando parla San Vedio lo disturba, a volte si sente ma già disturba. Gianni, anche tu sei in mezzo alla propagazione, aspetta un attimino, no, ti do un'accelerata, guarda se riesci a sentirmi ora, non lo so, cambio passo. Rompi tutto, Savvegli, e accelerata puoi dare, rompi tutto. Elimina quel cavo che c'hai, cazzo, un RF choc lì e ti blocca la radiofrequenza. Cavolo. Mettiti 11 mesi di RG58, basta. Se no non riuscirai mai a calarla quell'antenna. Come dispersione? Oh, è migliore dell'RG58, io ho la caccetta e va bene. Ma lui c'ha 22 metri di RG58, tutti arrotolati, e gli fanno la bobina, gli fanno, capito? Beh, non deve fare manco piega il filo, non si arrotola. Ma infatti l'ho liberato, l'ho fatto scendere giù e quasi quasi mi tocca giù in cortile, capito? Salve, ti conviene tagliarlo e via e usare quello che ti serve, me ne lascio un po' di più dentro casa, ma poca roba. Ma perché lo deve rovinare il capo, non ho capito, cosa lo taglia a fare? Mette 11 metri di RG58, così sono un'onda intera e riesce a tararla bene l'antenna. Ma sei di te sempre che l'RG58 non serve a nulla e si deve far mettere l'RG58, boh, vabbè. A me mi hai detto tutti i culoni che avevi l'RG58, adesso li facciamo mettere l'RG58, io li farei mettere la caccetta o la camina. Ma metta quello che vuole, l'importante è che siano il cavo che gli serve e basta, che non faccia giri per fare bobina, se no c'ha un RF choc praticamente. Riesce, non si mette il gattore. Sì, quello sì, Dattari, quello sì, però già che lo sta mettendo lo mette buono il cavo e buonanotte. Se no non l'avrei rovinato il 213, capito? Perché dopo magari tocca aggiungerlo con un barilotto, se gli serve altro cavo, quando deve piazzare l'antenna come si deve, quello me l'avrei tenuto caro, tanto che a quel cabocco. Scusate, me la sento ogni tanto, mi devo ascoltare che c'è mia moglie in doccia e devo guardare al pupo in camera dell'elettro tranculletta. Infatti non lo volevo guardare, ma comunque sia mettendo balloso con 2 PL facciallati bene, la dispersione è minimissima. E allora fai così, te ne tagli 11 metri e l'altro te lo arrotoli da qualche parte, così quando ti serve lo utilizzi. Gli metti un barilotto e 2 PL, di quelli buoni giustamente. Poi adesso mi c'ho qua un RG58 già collegato con 2 PL, è che mi devo avvicinare l'antenna perché non ci arriva fino a lì. Il bailame sta aumentando. Gira, dobbiamo fare forza per sentirci. 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Brecco, brecco. Se li chiamate pure, allora è logico che entrano. Invece ignorateli, cazzo. Virgola. C'era. Prima c'era Bergamo e Vicenza, Gianni. Prego. Avanti. Buonasera a tutti, la sapete Cristian. Ciao Cristian, ben entrato. Ti mando avanti Natalino per primo, avanti Natalino. Un attimo di QRX che sta squillando il telefono. Ciao Cristian, ben entrato, dove ti trovi? E la zona Bollywood, direzione Porto Torres. Ok, direzione Porto Torres, cercheremo di farti compagnia. Avanti gli altri, avanti Gianni, doppio room, dove ti trovi? capace, saluto l'amico, non ho capito chi è, direzione Porto Torres. Buonasera, 7351, la stazione doppio rum, avanti. Cristian, Gianni, è Cristian in barra mobile sulla VTV. Ciao Cristian, ben entrato. Qua ti ascolto bene per il momento, dai, a parte il laburotto di propaganda che c'è sotto. Si sente, mi sono io. No, non ce l'è, beh, là, bene pieno, fidati. Qua se ne sente parecchio di laburotto, Adesso come ho cambiato il radio, forse questo è un po' più sensibile. Stanno entrando, sì, poco fa c'era il Bergamo e Vicenza, però poi l'apertura si è chiusa, e ciccia, vabbè dai, già siamo in occhi, avanti a chi tocca. Attenzione, chi chiama la Sardegna, avanti. Allora, ci sono italiani in FM, se volete provare. Ma sul 10? Ehi, qua, in FM. Ma ragazzi, siete passati in FM? Cioè, sui 10, è uno dei pinguini in giro. Cristian, non ti ho capito, cosa hai detto? Cioè, italiani in frequenza, uno dei pinguini in giro. Ah, è meglio stare in AM, dai. Pinguini, chissà che si sciolgano col caldo. Ma tributi, già con la pattuglia. Ma con le macchinette? No, con la macchina è normale. Ehi, già mai compreso, le macchinette, quelli con gli specchietti, mi. No, senza, in giro, li stiamo casseggiando, dai. Mi pettinati bene, mi, Cristian. Fanno la fototessera per la identità. Allora subito, se hai fatto chiamare il tuo radio, va tranquillo. Se no esci insuffiato, mi, se non ti pettini bene. Lo so, Natali, però compenso con la scena, con la barba almeno. Alzo gli amulotto, crocro, ui. Saverio, ci sei ancora? Forse si è spostato. Gianni, avanti Gianni, doppio. Via, sto salendo in montagna. Ali, dove sei, bello? Sicuramente diretta Osilo lì, nella parte più alta, per fare gli ex lì viene bene. No, sto qua a Sassari, devo andare a prendere a Elena dopo, non ho tempo di andare a Osilo. Ma già vado in un punto dove si prende bene, già lo so dove andare. Vicino a dove ci sono le corna. Dove sento più? No, tutt'altra parte. Nel parcheggio delle querce. Ho capito. Ma anche dove ci sono le corna si prende bene. È che l'imbara è troppo lontano, se no. E dove sono le corna? Già lo so io. Dall'imbara in VHF si sente Roma in diretta. Quello è un punto strategico, Natali. E una volta siamo saliti a fare delle riparazioni con la buonanima di Planetta. Col portatile abbiamo sentito Roma in diretta da sopra. Ma una volta non c'erano i militari, o tuttora, e a seconda di dove ti avvicinavi ti puntavano il fucile. Ci sono installazioni anche di quelle. Noi siamo andati per altre cose, per roba di altre cose. Quindi si sentiva, cazzo, ma lì è un casotto brutto. Inter, cucù! Vabbè signori, io me la chiudo, tanto non mi piace nemmeno, non mi posso spostare, non posso fare un cavolo con questo, vabbè dai, ci sentiamo alle prossime. cambio. Ehi, Natalino, vabbè, siamo qua, se ti vuoi trattenere, anche se sei un po' limitato, dai. Siamo qua. Diciamo che sono castrato, non limitato, in queste condizioni. No, comunque questi, se un italiano è arrivato 9++ in FM, ma non risponde, è inutile anche chiamare. Buon viaggio. Capito, se non rispondono tanto vale ignorarli. Chiaro che sì. Oh yeah. Sì, all'imbara c'era quella struttura americana che è stata dismessa. E lì è un bel punto, Lì anche con un apparecchietto omologato ci sono buone probabilità di farsi sentire forte. Ci sono i ponti radioamatoriali lì. Siamo andati a fare una questione lì con quella persona e ho potuto contattare di persona. No, io anni fa ci sono andato lì dove ci sono le postazioni TV con la buona anima di un mio amico che faceva le manutenzioni di alta frequenza lì per le TV, Venanzio Pina, non so se vi è mai capitato di averci a che fare. Sì, mi sa che è scomparso l'anno scorso. Se non lo sapevano, anche a lui conoscevo, se ne è conosciuto poco di gente. Sì, faceva le, ormai era specializzato in alta frequenza, poi praticamente collaborava con TeleG per la manutenzione, insomma, quando c'era da fare qualche lavoro, sia di alta frequenza che bassa frequenza, veniva a darci un colpo di mano. Mi dispiace, anche lui ha varcato il ponte, lui ha. E tanta gente se n'è andata, di quella che ho conosciuto io. Oh signore. Qualche settimana fa è passato a miglior vita l'editore, il proprietario titolare TeleG, un paio di settimane fa credo, a inizio maggio se non sbaglio. E ormai se ne erano andati su internet loro, capito? Non c'è più TeleG nei canali normali. Forse c'erano troppe spese per i ponti, per tutte le attrezzature, capito? E allora sono passati in digitale, diciamo così. Sì, li avevamo sentiti i primi dell'anno e i costi per fare l'upgrade per il digitale terrestre erano veramente esosi, troppi soldi, e quindi hanno desistito e hanno mollato la presa. Perché devono cambiare tutte le apparecchiature, da quelle analogiche devono passare a quelle digitali, e quindi devono cambiare anche quelle dei ponti, tutto quanto, ed è un macello, troppi soldi ci vogliono, non è così? Già lo so Natale, io ci ho lavorato 18 anni, quando c'è stato il primo passaggio dall'analogico al digitale, nella postazione di Monteoro, ritira tutto e metti roba nuova, adesso non mi ricordo all'epoca quanto era costato il salasso. Vabbè, era andata particolarmente bene perché erano state prese delle apparecchiature tipo ex demo, da una persona di fiducia sotto consiglio di Venanzio, mi pare, quindi si era trovato del materiale a buon prezzo. Niente, insomma, chissà poi, adesso mi era stato detto, ti ripeto, mesi fa, però ora non me ne aumento. E comunque niente, il gioco non ne valeva più la candela, amico. Perché devi cambiare tutte le apparecchiature nei trasferimenti, e quello sborsa un sacco di soldi, capito? Devi fare trasferimenti nuovi praticamente. Una volta che cambi frequenza anche le apparecchiature vanno cambiate e hanno dovuto mettere quelle nuove. Quelli che hanno cambiato hanno speso parecchi soldi. Già lo so, abbiamo lasciato Marco in parcheggio. Avanti Marco. Mo, non mi avete più chiamato. Sono qua. Scusami già, vabbè, tra un ragionamento e l'altro mi sono un attimino incartato, dai. Vieni avanti. Là, ho provato ad andare salendo su da Monte Bianchino, sono salito sì lassù, ma non c'è un punto di ombra, tutto canto il sole, me ne sono ritornato davvero che c'è l'ombra, almeno si sta a mille. Infatti, a te lo faccio va, a pigliacaglio. Mi ha detto mia moglie che c'è un caldo della Madonna, ti è uscita a portare il cane. No, io a quest'ora non lo porto, lo porto la mattina presto e poi la sera tardi, e se no è troppo un gas. Lui è abituato, poi se deve andare a fare la pipì già avverte e noi lo facciamo scendere, fa la pipì e se ne sale, da solo. Non sai che questo è automatico il cane. Ma nel vicolo lì, data lì, è più riservato, poi c'è ombra, quindi non è che soffre il caldo se scende lì, ma se la regge in giro i polpastrelli le bruciano nel catrame è caldo. E nel marciapiede lo fa passare, già gli ha fatto fare un giro lunghetto, gli ha fatto fare e poi ne l'ha portato. La poi subidureva, biga andai a saddu. Adesso se lui deve andare a fare la pipì già avverte, io prendo, gli apro la porta e lo faccio scendere, lo controllo dalla finestra. Quando sale gli do il pezzo del booster che lui vuole. Quando lui fa le cose bene, allora c'è il premio. Attenzione nord Italia. Avanti per l'Italia. Con la buona giornata, qui Nord Italia, Vicenza, operatore Franco, qui 73, tutto a voi. Franco in Vicenza, benissimo, noi qua in QSO, nella città di Sassari, di Nord Sardegna. A me. Avanti, l'amico in Vicenza, ci ascolti ancora qua al Nord Sardegna. Che parito. Pagazione corta, C'è lo skip corto. Praticamente non è stabile la propagazione, là. Se ne scende subito, sale e scende, c'è questo bit. Come la marea. È proprio così. Andà bene, Marco Condor. Si sentono mi sottofondo qua, però non sono furti, là. E anche qua si sentono, non sono furti. E quindi cosa rispondi a fare? Ignorateli, se no cazzo succede un macello. Stanno schiamando poco fa, uno sopra l'altro erano. Perché deve essere che Sassari non lo sentono quasi mai, e allora come sentono Sassari subito uno sopra l'altro. C'è un non si capisce proprio la mano. Avanti! Salvino, riprendi. Me lo posso immaginare. Io purtroppo non ci posso andare in quel canale lì perché ho dato tutto. E non c'ho nulla, c'ho solo questo omologato qui e non sono praticamente sotto tiro e quindi non mi va, non c'ho più niente qua. Sono andato a dire che avevo gli apparecchi cazzo dentro l'armadio, dimmi tu, e non è vero, mi hanno anche diffamato cazzo, aiuto, poi gente male, no, non c'è nulla da fare. Fortunatamente non faccio più TVI perché ho aggiustato l'antenna TV a quello che disturbavo, però quindi devo aspettare qualche visitina, perché questi ci mettono poco a denunciarti. Mi hanno già denunciato una volta, quindi basta. Quello che mi dispiace, non posso salire manco a farmi qualche diex in banda laterale, perché non c'ho più nulla. Guarda che ci sono gli apparecchi là, che c'è, ma chi? Ma gente vicinato, di cosa si tratta? Di gente che comunque lavora in frequenza, cioè. E già te lo dico domani, al corso vieni. Spero di sì. Devo trovare qualcuno che venga a casa qua a assistere a mia moglie, perché comunque c'è i punti e tutto quanto, però non la posso lasciare da sola con i bambini, quindi devo trovare qualcuno, ma già penso che venga Valeria, quindi già mi libero domani, mi libero per forza. Vabbè, gente del vicinato, si vuoi che sia, a me mi hanno fatto fare un bel di ospedale, mi ho avuto due operazioni per l'incazzatura, ma lo sai cosa ha detto me sul stesso? Non hai idea, sapevi, ma ne è arruinato. Oltretutto mi hanno sequestrato un baracchino, mi hanno sequestrato un rosmetro che solo quello costava 150 euro della Daiwa, perché non erano marcati CE e allora me li hanno sequestrati. Anche l'alimentatore si stavano portando via, ma comari che è marcato CE e non me l'hanno potuto toccare. Capito? Miserabili cazzo, per carità. Lescon Radio esiste ancora, sono ancora. Ma Lago, cosa avete l'alimentatore? È l'apparecchio con cui esci che ti possono sequestrare, cosa avete l'alimentatore? Allora non gli interessa l'alimentatore, boh. E intanto signora marcato CE me l'avrebbero portato via, perché non li puoi tenere. Non hai capito che è uscita questa nuova legge? Appena era uscita la legge sono venuti qua e mi hanno fatto bururu verbale. Sono giunti con la questura, mi non ha compreso che devi entrare a fai forza. Perché prima entra la questura e poi entrano loro. Vabbè, io già ce l'ho tutti marchiati gli alimentatori, perché già li ho presi da poco, ma anche il rosmetro tutto qua è marcato CE. Il mio, quello d'Aiva, non era marcato CE e me l'hanno sequestrato, 150 euro in fumo. L'apparecchio era omologato ma non era marcato CE e me l'hanno sequestrato e mi hanno fatto anche la multa, non solo l'altro, con tutto che non era colpa mia che facevo TVI, perché non ne facevo. Cazzo, sono saliti con l'analizzatore di spettro qua, cosa ti gridi, e hanno guardato se avevo spurie, tutto, hanno controllato tutto. Candela niente in mara. Perché io balle non le dico, io ti faccio vedere tanto di verbale tutto quanto, mi già. No, no, non ne dico cazzate io. Nessuno ha detto questo. Gianni Lubrofetta. Eccomi. Eccomi. Vabbè. Noia. Purtroppo succede cose che non dovrebbero accadere, però accadono. Noia. E allora sale il malumore. Noia. Per carità. Ci siamo dimenticati Marco, non so se è ancora all'ascolto. Se ci sei batti un colpo Marco. Deve essersi assentato. Adesso se vogliamo entrare devono avere il mandato. Se no non sei obbligato, siccome la concessione non la paghiamo più, non siamo più obbligati a farli entrare. Perché domicilio privato, non abbiamo firmato niente, quindi. Da questa volta in poi, siccome hanno abolito la concessione, ci vuole il mandato per entrare qua. Ma io li posso entrare a forza, così manca la Baidani e si rendono conto. Se dopo vogliono guardare negli armadi li faccio guardare, a vedere quanti baracchini c'ho nascosti. Cazzo, perché hanno detto anche quello, capito? E dice non so quanti baracchini avevo nascosti tutti nell'armadio, che io quando sono staccati dall'antenna e dall'alimentazione ne posso tenere quanti cazzo ne voglio, anche fuori dall'armadio li posso tenere e non mi buoni di nulla. Una volta che sono staccati dall'antenna e dall'alimentazione li puoi tenere. Oh yeah. Ma c'era anche Cristian, l'abbiamo perso. Oh yeah. C'era in direzione a Porto Torres. Lo so Natalia, no. Una rottura di balle. Passerà anche questa. E se te lo sto dicendo che sono nel mirino. Cazzo. Perché quelli mi avranno già denunciato, io lo so. Che sono una massa di delinquenti. Prova a ridare, avanti già. Nove pisa Natali, interessate che tu sei in regola, adesso e basta, tutto lì. E stai tranquillo. Tanto con quella gente lì non si fa ragionare, lo sai come sono tutti quanti, la pensano a modo loro, hanno un modo di pensare tutto loro, ti dicono prima di avere il baracchino non avevo disturbi, questo e quell'altro, adesso che c'è il baracchino c'ho disturbi, però non pensano che sia l'antenna loro che dà problemi, non gli altri. E io se ne reso conto, a me mi ha detto che non dovevo parlare, perché io lo disturbavo, che la guipa era la mia, ma è puzza. Però si è reso conto che quando gli ho aggiustato l'antenna, cazzo non lo disturbavo più. Semplice, no? Però intanto sulle prime ha detto che io non dovevo parlare. Sul primo? Sulle prime mi ha detto che io non dovevo parlare. Capito? Per non disturbarlo. Mi dovevo privare del baracchino perché se no io lo disturbavo a lui, capito? Secondo la sua intelligenza. Vabbè che c'ha 95 anni, poverino, mi faceva anche pena, allora sono andato e gli ho aggiustato la televisione. Perché una figlia si è messa in mezzo e l'ha convinto a farmi entrare. E allora gliel'ho messa a posto la TV. Ma in effetti vedi, non è la colpa tua. E se non lo disturbo penso proprio di no. Però lui diceva che era colpa mia, che io non dovevo parlare perché l'avevano messo su i figli, altri figli, a lui, che la guipa era la mia, ma è fuzza. Cavagala. Purtroppo la gente ragiona a modo suo, atta lì e vai e fate lo comprendi. Se che andane visto l'antenna viva Sabura, mi cazzo, questa disturba di più. Via fine e basta. Ehi, c'era gente, due persone qua che sono andate a casa loro io, perché avevano l'antenna incasinata. Allora se va via, né? L'antenna senza massa, praticamente gli avevano messo il polo caldo e la massa scollegata, e gli ero messi a posto io a queste due persone diverse. Sino erano esempi attaccati così. Mica c'è Saverio anche, Saverio avanti, Saverio è andato via. E magari si sta prendendo cura del pupo, capito? Sì. Vabbè, adesso è così là. E appena nato. Oh signore. E purtroppo è così già, me ne hanno fatto passare tutti i colori. Ho subito due operazioni. Sono diventato delle voci lipidari. Me ne hanno fatto tutti i colori. Per il baracchino, per le incazzature, non per il baracchino, perché mi incazzavo io, cazzo venivano a farmi le voci, già me ne hanno fatto poco di cose. Attenzione collega, se ascolti l'isola della Sardegna che chiama, cambio, non mi sento, avanti Lubrofer. Eia. Attento collega, si ascolti l'isola sarda, cambio. Oh yeah, sono passato nella tripla 5, c'è una burrata allucinante. Io me lo posso immaginare. Purtroppo io canali non ne ho e non posso fare un cazzo. Non ho manco uno di quelli che puoi spostare di frequenza. Qua questo, 40 canali e boh. Per sbaglio ho dato pure la prolunga di questo qui. Ed è corto corto il capo, vaffanguarla. Ah. Attento collega, qua c'è un QSO locale in Sardegna, se ci sei ti rispondi, se no ciao. Capa, collega di vicino,